Non risponde, povero. Mira, cielo è più chiaro, la terra più lieta si fa. Sol che mostri la fronte serena, bella vea tutto il cielo più chiaro, e la terra più lieta si fa, e la terra. Cresce più amena, ride il fiore che sorge più caro, scherza il rio che più fresco se ne va, ride il fiore che sorge più caro, scherza il rio che più fresco se ne va. Thank you. Thank you. Con la prole bella aurora in là